La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al Concilio Ecumenico Vaticano II. A 50 anni dallo storico evento, si è svolta lo scorso sabato 20 giugno a Roma una tavola rotonda organizzata, tra gli altri, dall'associazione Liberamente Noi. Ospite oggi ai nostri microfoni Giovanni Franzoni, relatore al convegno, teologo e padre conciliare. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. Sono trascorsi appena 3 mesi dalla sua elezione a successore di Pio XII, quando a sorpresa il 25 gennaio del 1959 Papa Giovanni XXIII annuncia ai cardinali riuniti nella Basilica di San Paolo fuori le mura la sua decisione di convocare un nuovo concilio. Il patriarca di Venezia, il Papa Buono, come presto verrà definito e percepito nell'immaginario collettivo, il Papa quasi ottantenne, sorprese il mondo intero. Si era in piena guerra fredda, la divisione del mondo in due blocchi contrapposti, Est contro Ovest, era proprio in quegli anni sul punto di degenerare in un nuovo devastante conflitto mondiale. L'annuncio di Papa Giovanni spiazzò tutti. Oggi noi iniziamo un anno, chissà, speriamolo bene, il concilio comincia e non sappiamo quando finirà, potesse finire prima di Natale, ma forse non riusciremo a dir tutto, a intenderci su tutto bene, ci vorrà un altro ritrovo, ma se il ritrovarci così deve sempre allietare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto quanto il mondo, tutto intero, vengono pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione. Sul Concilio Vaticano II, a 50 anni dallo storico evento, si è svolta sabato scorso a Roma una tavola rotonda organizzata tra gli altri dall'associazione Liberamente Noi. Il Concilio Ecumenico Vaticano II è stato uno dei più importanti eventi della storia della Chiesa Cattolica. All'annuncio da parte di Papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 seguirono, prima dell'apertura ufficiale, 3 anni di intenso lavoro durante i quali una commissione preparatoria, dopo aver consultato i vescovi cattolici, definì gli argomenti da trattare durante le sessioni plenarie. Il concilio fu aperto ufficialmente l'11 ottobre 1962 da Papa Giovanni XXIII all'interno della Basilica Vaticana. Nel 1963, alla morte di Papa Roncalli, ne prese in mano le redini il suo successore, Paolo VI. Si articolò in 9 sessioni, in 4 periodi, e si concluse il 7 dicembre 1965. Promulgò 4 costituzioni, 3 dichiarazioni e 9 decreti. Il Concilio Vaticano II, evento rivoluzionario per la storia della Chiesa, ha segnato un radicale ripensamento dei rapporti tra i cristiani, in particolare della dottrina e della prassi della Chiesa Cattolica. Seguì la Gaudium et Spes, che è la vera costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo moderno. Ma Papa Giovanni XXIII, come sappiamo, non vide la fine del suo progetto rivoluzionario. Morì il 3 giugno del 1963. Abbiamo in linea Giovanni Franzoni, che è stato uno dei relatori al convegno che si è svolto sabato scorso a Roma nella Sala Gonzaga di Via della Conciliazione, dedicata proprio al Concilio Vaticano II. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Perfetto. Lei è teologo, padre conciliare. Ricordiamo ai nostri ascoltatori l'esperienza della comunità di base di San Paolo, le sue posizioni progressiste, che le costarono nel 74, se non ricordo male, la sospensione a Divinis e poi 2 anni dopo le dimissioni dallo Stato clericale. Che valore dare a questa, diciamo, rievocazione di un evento così importante per la storia della Chiesa e non solo per la storia della Chiesa? Ecco, oserei dire che è doppia. Intanto si rievocano sempre le cose quando c'è una scadenza, i 10 anni, i 50 anni, il secolo, i 2 secoli, ed è importante per pescare nella memoria. Però c'è anche un'attualità particolare, in quanto è in corso da diversi anni una sorta di riflusso che ha avuto poi un'impennata anticonciliare, diciamo, da parte di una associazione che si appella al nome di San Pio X, di vescovi cosiddetti lefebriani, che sono stati riammessi da Papa Benedetto XVI, erano stati scomunicati e sono stati riammessi nella comunione ecclesiale, però non pare che stiano, per così dire, in una fase di accettazione del Concilio, quindi a questo punto si sta aprendo un fronte che oserei dire è piuttosto moderato, non è tanto del dissenso quello di sabato scorso a Roma, quanto c'erano anche persone che fanno riferimento alle realtà parrocchiali, insomma, ecco, e, per fare una sorta di zoccolo duro sui valori irrinunciabili del Concilio, non pensiamo che sia possibile tornare indietro. Ecco, lei parlava poco fa di impennata anticonciliare. Beh, in modo particolare su due punti che sono stati più contestati. Il documento Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa e il Nostra Aetate sulla la riapertura del dialogo con l'ebraismo. L'antiebraismo è una delle connotazioni fondamentali di questi che non hanno accettato il Concilio. Hanno sempre considerato gli ebrei come una fascia di ostile, cieca, perché arrivano anche sul versante, poi diciamo storico-politico, a essere dei negazionisti nei confronti della Shoah, nei confronti dello sterminio perpetrato dai nazisti, insomma, perlomeno sono riduzionisti, ecco. E questi loro non accettarono perché l'ebraismo è, per così dire, è un poco una sorta di negazione del cristianesimo, perché è diverso, diciamo, da delle popolazioni indigene, africane o sudamericane o asiatiche, le quali non hanno mai conosciuto Gesù, ma gli ebrei vengono accusati di aver conosciuto Gesù, anzi era un ebreo, e di non aver accettato la sua missione salvifica, il suo essere Messia e così via. Quindi la riapertura del dialogo su questo e poi l'aver tolto perfidi giudei dalla preghiera del Venerdì Santo, che l'aveva già fatto Papa Giovanni, questo ha urtato molto i lefebriani. L'altra è il fatto che tutte le religioni devono essere considerate, cioè ogni religione non può essere imposta, diciamo, come l'unica vera religione, ma ogni religione è la religione della propria storia, della propria fede, del proprio convincimento. Questa battaglia fu condotta soprattutto dai vescovi americani in concilio, perché negli Stati Uniti i cattolici erano una minoranza e direi socialmente anche marginale, in quanto i cattolici erano tutti quanti o immigrati italiani o irlandesi o portoricani o messicani. La Chiesa era diventata una Chiesa importante, fino a pochi anni fa ad avere un cattolico come Presidente della Repubblica, no? John Kennedy, certo. E questo lo si doveva al principio della libertà religiosa che era lo statuto degli Stati Uniti, e quindi sì. Gli americani si batterono molto su questo principio, con il consenso però anche dell'Episcopato mitteleuropeo, diciamo i tedeschi, i belgi, gli olandesi e così via. Ci fu una notevole resistenza fra gli italiani, fra coloro che hanno sempre sostenuto che fuori dalla Chiesa non vi è salvezza, ecco. Le altre Chiese non sono delle barche sfondate che non portano, sì. Non portano alla salvezza, ecco. E siccome c'erano delle sotto Pio IX, anche prima sotto Pio VI, eccetera, c'erano dei documenti molto pesanti contro il cosiddetto relativismo, come si chiamava allora, o insomma, così, il considerare le religioni più o meno tutte quante salvifiche, anche se uno ci aveva la sua. Ecco, quindi avevano anche un punto forte, cioè c'erano dei documenti precedenti che condannavano il modernismo e condannavano questa diciamo rispetto della diversità religiosa. Quindi non fu facile, il documento tornò varie volte in commissione e fu un po' tribolato. Comunque è passato. E oggi siamo tutti consapevoli che ciascuno ha la sua strada. Il cattolico ha la sua, per carità, ed è ben convinto, ma è ben lontano dal dire che chi non è cattolico non ha una salvezza nella sua vita.